Io qui con me ho il nostro Federico Raponi, libraio in quel di Monteverde, che organizza ormai con me da 3 edizioni, perché la prima se l'è ciucciata tutto da solo, della Festa dell'Arte a Monteverde. Benvenuto Federico. Ma buongiorno a tutte e a tutti. Hai capito che voce che c'ha? Ma lui è anche speaker, perché lui è speaker a Radio Onda Rossa. Eh beh, sì, da un po' di anni. Da quanti, Federico? Era il 95. Perché lui è anziano. Ormai è molto anziano. Però non li dimostra, è quello che mi fa incacchiare moltissimo. Sembra un ragazzino, vabbè. Allora Federico, noi siamo qui oggi riuniti perché da 3 edizioni mi coinvolgi in questa avventura tremenda che è la Festa dell'Arte, ovvero 1 o 2 giorni al Teatro Villa Panfili, dentro Villa Panfili, dove cerchiamo di metterci veramente di tutto e di più. Sì. La prima edizione è stata di un solo giorno. L'ho proposta al Teatro Villa Panfili, mi hanno detto ok e me la sono ciucciata appunto tutta da solo. Dopodiché sei subentrata tu e con Veronica, che è la direttrice del teatro, abbiamo condiviso questa direzione artistica. E per cui dalla seconda edizione in poi è diventata 1 o 2 giorni. 1 o 2 giorni arricchita, veramente molto ricca. Noi principalmente, essendo tu un libraio, essendo io un'editrice, è ovvio che incentriamo molto del programma sulla presentazione di libri con tematiche che vanno spaziando sempre di più, però hanno sempre un fondo sociale molto importante, tematiche sociali impegnative. E poi ci abbiamo messo l'arte, come si dice, l'arte figurativa, perché facciamo un'esposizione. Una mostra collettiva. Una mostra collettiva di artisti che inizialmente erano solo di Monteverde, perché la manifestazione nasce a Monteverde per gli artisti di Monteverde. E poi io sono entrata e mi sono intrufolata e ho allargato questa realtà. Per cui essendo io del 5° Federico del 12° municipio di Roma, porterò alcune realtà del 5° anche. Ma non solo, noi allarghiamo a tutti, ci piace moltissimo questa apertura e ci piace anche il fatto che la Festa dell'Arte sta diventando un appuntamento. Se ancora per i romani non è proprio noto al massimo, ma per gli artisti sta diventando un appuntamento fisso al quale vogliono partecipare, e questa cosa è bellissima. Sì, poi sono 2 appuntamenti annuali, abbiamo l'edizione primaverile che è quella di maggio, inizi giugno, e quella di autunnale che è ottobre-novembre. E quindi la prima era nata così, come un esperimento, e poi da quel momento invece ha preso cadenza semestrale. E quindi ci saranno, sì, presentazioni di libri, ci saranno performance, ci saranno momenti musicali anche di teatro. Di sonorizzazioni, per carità. Che non ce ne voglia nessuno, tutta roba sperimentale, improvvisata lì per lì da artisti che non sono certo dei novellini, ma sono super artisti in grado di poter tenere 40 minuti di improvvisazione, e quindi insomma siamo molto fieri di questa cosa. Sì. Attività per bimbe e bimbi, lo spazio anche riservato all'esposizione di case editrici indipendenti. Esatto. E poi ci sarà anche un appuntamento importante che non è all'interno del teatro, ma nello spazio del Gianicolo, nei luoghi delle battaglie a difesa della Repubblica Romana, con Andrea Di Giorgi, che è un amico. Tra l'altro ieri ha organizzato una visita guidata al museo di Via Tasso, dove sono stato, e quindi è un amico che è anche molto bravo. Ero stato a una sua visita al Gianicolo, ho detto mettiamola dentro alla Festa dell'Arte. Sì, quindi è possibile, dalle 10:30 c'è il primo appuntamento, poi ovviamente nella prossima settimana pubblicheremo il programma con comunicato stampa eccetera, avrete la possibilità di avere tutti gli orari dei vari eventi, di modo da poter arrivare quando preferite. Abbiamo già una locandina bellissima di Frannitieri, che è una illustratrice di Monteverde, alla quale ho chiesto sottolinea di Monteverde ha chiesto un contributo proprio per la festa, e quindi lei ci ha fatto questo bellissimo disegno. Meravigliosa, sì. La locandina è molto particolare, lei è un'artista molto particolare, molto femminile, è tutto un mondo femminile quello delle sue immagini. Consiglio a chi insomma vuole di venire a vedere l'esposizione, che sarà magnifica, perché ci saranno opere di tanti artisti diversi fra loro. Diciamo che si crea un'energia bellissima quando siamo lì. Poi mi hanno chiesto anche se ci fosse un tema di riferimento, ma no, hanno completa libertà, per cui le opere spazieranno veramente. Sì, anche perché poi diciamo che è libero, è ovvio che sono artisti che vengono con le loro opere incorniciate sui supporti, e quindi per noi noi dobbiamo ringraziarli, questi artisti che vengono a esporre. Non la viviamo al contrario, come ti faccio esporre. No, noi invece siamo contenti quando vengono gli artisti che ci dicono: ah, ti posso portare questo? Ma certo, grazie! È una cosa bellissima che viene a crearsi. E poi, tra l'altro, quest'anno abbiamo due piccole novità. Allora, una forse, ovvero parteciperà a qualche associazione, soprattutto noi sensibili alla tematica Gaza, ci teniamo a invitare le associazioni che stanno lavorando adesso per aiutare il popolo palestinese, quindi saremo contenti se qualcuno l'abbiamo invitato, stiamo aspettando le risposte. Aggiungo che c'è anche un dibattito, e anche proiezioni, perché alcune opere sono supportate da elementi visivi. Assolutamente, ci sarà una bellissima lezione della scienziata Raffaella Bullo sulle microplastiche, e anche io sono molto curiosa di questa tematica, e poi faremo invece proprio sabato mattina all'apertura, dopo i saluti istituzionali, faremo un incontro dedicato al carcere minorile. L'hai anticipato tu, eh? Io non l'ho detto. Sì, certo, niente. Vabbè, lo diciamo, il carcere minorile è importantissima questa cosa. Sì. E ci teniamo proprio tanto, perché comunque la realtà ci sarà ospite, ovviamente. Vabbè, non spoileriamo, lo manderemo col programma, però ci saranno insomma delle persone che ne sanno parecchio. Poi che altro? Sono due giorni in una location magnifica. Dalle 10 al tramonto, 18? Romanticamente al tramonto, alle 18, perché poi chiudono la villa, sennò rimaniamo tutti dentro. E a questo punto, però io non sono preparata, vediamo un po' che cosa ci ha portato Federico. Farei un intermezzo sonoro. Allora, con che vuoi partire? Presentatela te, ecco. Bomba estereo con fuego. Aspetta, bomba estereo con fuego. A questo punto io facciamo così. Prego. Oh. Il brano Goatto ha scelto, spagnolo, sì, spagnolo goattissimo, fuego. Una nota a margine, allora Sira mi ha chiesto tre brani per questo, questa mia ospitata qui a Radio Elettrica. E allora ho detto un uomo e due donne per forza. Madonna, com'è pari genere. E anche uno in spagnolo, uno in inglese, uno in italiano, no? mi pare buona come soluzione. Se lo dice allora, da solo. Perché... È vero? È verissimo. Allora, perché ho scelto Fuego? Perché mi ha fatto venire subito in mente uno dei libri che presenteremo durante la festa, ossia L'autodifesa delle donne, pratiche, diritto e immaginari nella storia, un libro del 2024, perché Fuego mi ha fatto venire in mente uno degli slogan del transfemminismo recente, e sorella se non torno brucia tutto, e quindi fantastico fuego. bene, vedi, no, c'era anche un nesso, questo ti fa onore, dai, mo voglio vedere se pure gli altri due c'hanno tutto, sta tutto è preparatissimo. Che vergogna, mi fa sfigurare. Senti Federico, scusa, una cosa che non c'entra niente, ma è vero che la libreria Raponi è la più antica di Monteverde? Beh sì, considera che mio padre l'ha rilevata nel 1957, urca, quindi si può considerare libreria storica, una piccola libreria generica di quartiere con un piccolo giardinetto interno. E insomma è comunque un punto di riferimento culturale nel quartiere. Assolutamente, ma anche Federico, per chi non lo conosce, è sempre stato un militante, attivista, è un agitatore culturale da quando era un ragazzino, posso dirlo, è stato uno dei fondatori uno dei primissimi centri sociali a Roma degli anni 80 erano. No. Era l'inizio della seconda ondata di occupazioni, era il 91. Centro sociale a Scatasuna, all'interno di Villa Panfili, quindi Villa Panfili che torna. Certo. E sì, poi ci sono state varie vicissitudini che ho raccontato nel mio libro. Nel libro, sì. Tra l'altro scrivo anche, insomma. È vero. Oltre essere giornalista e radioconduttore. Esatto, è un altro multitasking Federico, e ha scritto due libri, uno l'ho scritto, gli altri due li hai curati, vabbè, diciamo, uno, il tuo libro si intitola Quando il fumo si dirada. Brava. Hai visto, me lo ricordo, l'ho letto anche, addirittura ti ho anche fatto i complimenti, c'è quell'aneddoto famoso che io ormai mi rivendo ovunque perché mi piace da morire, quando ci fu da prendere botte, Federico che è un esperto nel prendere botte, allora si mise le ciabatte sulle braccia, prese le ciabatte con le mani e con la suola a mo' di scudo sull'avambraccio, no? E questo, ho detto, cavolo, ma allora è uno che le sa prendere le botte. Si è tolto le scarpe e si è messo le ciabatte sulle braccia. Grandioso. Queste. Insomma, quando il fumo si dirada, se chi è, per chi è curioso della storia di Roma, insomma... Sì. È... Diciamo anche, ecco, spieghiamo un attimo per chi ci ascolta, che la storia di più di 30 anni di storia di movimento in terza persona, perché è un omaggio anche alle migliaia di persone che eravamo, insomma. Non è... È una autobiografia individuale, ma soprattutto collettiva. È vero che sei stato arrestato? Beh, sì. Ma questo no, non è una medaglietta. No, a me piace molto, sono andata dalla mamma, quando ho letto questa cosa ho detto alla mamma quante gliene ha fatte passare, e ho fatto sì, tante. Santa mamma. È successo mamma. Anche questo. Fantastico, no, bello, bello, per motivi validi è bellissimo, politici, so, per, certo. Per motivi politici ci fa onore, insomma, altro che. Allora, quindi abbiamo detto questo bellissimo libro. A questo punto sì, io cito i cinque titoli che riguardano lo spazio da me curato, e sono sabato 31 maggio alle 15 Una resistenza popolare, storia di Bandiera Rossa a Roma, uno libro dello scorso anno, uscito nel 2024. Bandiera Rossa è una delle più importanti formazioni partigiane durante l'occupazione nazifascista a Roma, che si è sviluppata nei quartieri periferici, diciamo dal Pigneto al Quadraro, Tor Pignattara, insomma tutta la zona sud-est della città. Ci saranno insieme all'autore Marco Trasciani, ci saranno lo storico e critico letterario Raul Mordenti e Alfonso Perrotta, che oltre ad essere uno storico è anche stato una delle anime del Villaggio Globale, un centro sociale che adesso è diventato altro, è uno spazio di residenze artistiche, ma per tutti gli anni lo 90 conosciamo. È stato uno spazio importante e anche sede dell'assemblea dei centri sociali, del coordinamento dei centri sociali a Roma. Assolutamente, insomma, la storia del Villaggio Globale per chi è di Roma è abbastanza nota. Quindi poi tra l'altro Raul Mordenti è un nostro affezionatissimo Vedi. Amico, cioè con grande piacere lo rivedo. Poi domenica 1 giugno alle 11 c'è appunto l'autodifesa delle donne con le curatrici Simona Feci e Laura Schettini, ma anche l'autrice Alessandra Chiricosta e anche una delle autrici che è Leila Spignese. Poi c'è sempre domenica 1 giugno alle 15 Ma noi non potevamo aspettare più, un libro a cui tengo molto, Memorie e storia delle lotte per la casa a Roma, che riguarda tutta l'ondata di occupazioni dagli inizi degli anni 60 fino agli anni 80. La prima parte è su tutte le occupazioni a livello cittadino, la seconda si concentra sulla storia di Magliana, delle occupazioni importanti delle case a Magliana. E poi c'è alle 15 sempre di domenica 1 giugno nello spazio esterno. Non si sbaglia. No, è questo. Ma noi non potevamo aspettare più. E gli anni del male. Insieme ai curatori, cioè il curatore Bruno Fusciardi, ma anche Giulia Zitelli Conti. E poi come ospiti Loredana Bonzilli e Renato Fattorini, che è uno dei protagonisti delle lotte per la casa Bene. A Roma. Ne hai dimenticato uno, di sì, sabato. Sì, sabato, che è gli anni del male. Gli anni del male, ospiti ci saranno Angelo Pasquini, che è uno dei curatori, e Mario Canale, altro curatore. Gli anni del male. Il male era una rivista, satirica che ha fatto la storia della satira in Italia. È durata qualche anno, ma insomma ha lasciato il segno. Sono celebri le sue false copertine che riprendevano i quotidiani, tipo l'arresto di Tognazzi in quanto capo delle Brigate Rosse. È vero. Quella, magnifico. Quella fece parecchio rumore. E ha ospitato una generazione importantissima di disegnatori satirici. Sì. Per noi, per Culture Jam, ha contribuito per un lungo periodo Luca Scodellari, Scod, che era uno degli illustratori del male per tantissimi anni. Andrea Pazienza. Certo, insomma. Fantastico. Sentiamo il tuo prossimo brano? Va bene. A cosa si aggancia? Si aggancia al male, agli anni del male. Vedi, apposta. Allora, ci ascoltiamo? Diga, cosa ci ascoltiamo? Faust O, con O, O, O. 1979. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh ci sei per me. Mi veste, tu ci sei per me. Ho fame, te ne vai per te. Ho lei e tu ci sei per me. Noi due in vista di un weekend, senza sorriso assomigli un po' a me. Vedere un film, vorrei venire ma non riderei mai. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Penso a lei, mai più. Mi giro e tu ci sei, mai più. Non mi dire che non vincerò mai. La tua faccia non è uguale alla mia. Non mandarmi sempre fotografie. Sai che poi io le butterei via. Ancora? Sono forte quando tu non ci sei. Le tue mani non le cercherò più. Fausto, oh oh oh! 1979 è un personaggione. Eh sì. Allora, sì. Questo brano mi ricorda molto, è molto vicino al rock demenziale. E quindi il collegamento con gli anni del male. Con ci, la stava, sì, ci stava, sì, ci sì, stava. Sì, vabbè, te la do per buona anche questa, dai, va bene, va bene. Senti, ti hanno riconosciuto, ti hanno riconosciuto perché qua abbiamo Federico Raponi, è il nome, quello da persona seria, ma lui era noto come Fedingo, Fedingo! Così lo chiamavano come quando, di battaglia. Quando si, esatto, quando si faceva prendere a manganellate con le ciabatte addosso. Ma posso dirti farti una rivelazione? Non ho mai preso una manganellata. Aspetta, non è mai detto, cioè, non mai dire mai, mai dire mai. Fino a questo punto. Fino a questo momento, fino a questo momento. Allora, invece, per quanto riguarda l'altro lato dell'organizzazione, perché andiamo in tandem, soprattutto nella giornata di domenica si concentreranno molti eventi dedicati, o meglio, dove i protagonisti sono tutti artisti del CAI, del collettivo Artisti Indipendenti. Yes. Che aspetta, non abbiamo detto che chi si esibisce il sabato, brava, così nella performance sonora è Amptech. Quindi abbiamo Alex Marenga, che è uno dei principali personaggi di spicco del mondo della musica elettronica italiana, siamo proprio a altissimi livelli, che si esibirà insieme al Dr. Lopes. Aggiungo, scusa, faccio una parentesi che non c'entra nulla, però aggiungo che per gli anni del male avremo anche un contributo video di 6-7 minuti con materiale d'epoca, quindi molto interessante. Mi stai facendo venire un brivido lungo la schiena, perché bella presentazione l'abbiamo piazzata fuori o dentro? No, è dentro. Lo voglio ammazzare. Mi sembra che adesso sia io veramente, lui, guarda. No, mi sembra che sia dentro. Tu che vai in giro per Terme. Io, no, te l'avevo detto che c'era il contributo video. Ora lo vediamo, non ne sono affatto certa. Mm-hmm. Bene, allora, come vedete, tutta la diretta, il bello della diretta, abbiamo, come si dice, la stesura del programma con proprio. Con quella maglietta, tu, eh? La mia maglietta, Culture Jam, con... Con quella stellona rossa, no, su ma campo la frase, il motto, su, leggi, dillo. Parole di belli, menti libere. E quel gatto... E il gatto, perché i gatti domineranno il mondo. Ah, ecco. E ci stava. Il mio animalismo interiore viene fuori, dovevo metterci un gattino. Okay. Va bene. Invece, stavo dicendo, la domenica avremo i protagonisti, che sono gli artisti del CAI. A partire dalla mattina, dove presenteremo il primo libro alle ore 11, che è un romanzo Scidda di Anna Cocca, che è un romanzo che si basa su una storia fantasy, ma poi diventa veramente un'analisi introspettiva di un percorso spirituale, di un percorso personale, di un percorso di crescita, di arricchimento, di confronto con l'umanità, col mondo, col bene e col male. Insomma, è davvero un... E non sta leggendo, eh? No, non sto leggendo, ma lo dico apertamente. L'autrice è mia madre, quindi non potrei dire diversamente. E staremo io e lei a conversare sul palco, quindi sarà una presentazione atipica, dove io so bene cosa vuole dire, e cercheremo di trasmettere, insomma, i contenuti di questo splendido libro che sono fiera che abbia scritto la mia mamma. Aggiungo che, per quanto riguarda la mostra collettiva, gli artisti e le artiste prenderanno parola e quindi si presenteranno, come è avvenuto nelle scorse edizioni, quindi ci sarà modo anche di incontrarli. Per assolutamente, e questo avverrà subito dopo la presentazione di Anna Cocca. Alle 12 ci sarà la presentazione della mostra, dove gli stessi artisti saliranno sul palco un po' alla volta, perché sono sempre più numerosi ormai. Ma ce ne abbiamo? Saremo sopra i 20 sicuramente. Ah! Eh sì, l'altra volta erano... Io ero rimasto a 10-15, figuriamoci. No, sono parecchi okay. Ragazzi, i ragazzetti. Quindi avremo veramente delle opere molto, molto diverse, una più bella dell'altra, e sarà bellissimo. Quindi parleranno loro, si presenteranno, ci potranno spiegare qual è la loro ispirazione, le loro tecniche. Ovviamente sono tutti incontri apertissimi al pubblico, che può partecipare come e quando vuole. Noi amiamo proprio un tipo di manifestazione popolare, così, dove il pubblico è il primo protagonista. Dopodiché nel pomeriggio cominceremo una serie di presentazioni, tutte di scrittori e non solo, del collettivo Artisti Indipendenti, a partire dalle 14:30 Alessandro Bellotta, che è il cantante della Grazia Obliqua, che ha deciso di scrivere un libro dal titolo Oltre il confine, dove parteciperanno diversi relatori. A noi i confini non piacciono. Esatto, esattamente. Lui va ben oltre. E fra i relatori, che sono per la maggior parte psichiatri, perché sono tutti professionisti di settore, quindi potrebbe essere un'occasione per molti di noi. Ci sarà anche ospite Federica Valentini, ovvero Coatta Vegana, che è già stata ospite qui a Radioelettrica, ma verrà in quanto esperta facendo di social. Facendo un picco di ascolti. Facendo un picco di ascolti, esatto. Però, insomma, lei è anche un'insegnante di italiano e storia a scuola, è un'esperta di social e verrà quindi a confrontarsi su questa tematica specifica. Quanto mi piacerebbe vederla a lezione. Ma guarda, secondo me è tremenda, è fantastica, ma è preparata, è quello del fatto, appunto, capito? Mi piacerebbe. Lei sì, ha questa molteplice forma di esprimersi. Tra l'altro è una musicista, e il 24 di maggio la troviamo a suonare insieme ai P38 Punk al circolo a Pomezia, al circolo. Come si chiama? Alessandro Casponi, mamma mia, non lo ricordo mai. Vabbè, al Circolo Casponi penso si chiami, a Pomezia, insieme a P38 Punk e ai Gange si esibiranno anche i Nihilista, che è la formazione della nostra coatta vegana. Quindi fantastico. Subito dopo Bellotta avremo la presentazione di Alessandro Sabetti, che è l'altro Culture Gem, che questa volta ha scritto un romanzo con una protagonista femminile, che è una strega, che viene processata ovviamente dall'Inquisizione napoletana del 1644 per stregoneria. Quindi è un bellissimo racconto, molto noir, molto Edgar Allan Poe, quindi molto novella gotica. Dopodiché abbiamo un altro splendido, verrà Sandro Medici, verrà, che è il nostro direttore, quindi chi meglio di lui. C'è stato anche alla terza edizione, quindi. Esatto, esattamente. Ma stiamo parlando da una mezz'ora, ma l'abbiamo detto solo all'inizio che si tratta della quarta edizione della Festa dell'Arte a Monte. No, l'abbiamo detto, ma lo sai che non abbiamo detto quando è? Come no, sabato 31 maggio, domenica 1 giugno, 1 giugno, dalle 10 alle 18. Alle 18, insomma, in quando quel va del giù... Teatro Villa Panfili a Monteverde, all'interno della villa, del parco, sì, di Villa Panfili. Si entra infatti da via di San Pancrazio, si fanno 600 metri a piedi sono, e lì troverete il bellissimo teatro, una bellissima area con una bella accoglienza col giardino, dove potrete sorseggiare un caffè di quello tipo brodo americano, che è ottimo, io lo prendo tutte le mattine, per cui va bene. Comunque stavo finendo di dire la giornata di domenica, l'ultimo incontro è con Pancia di Balena. Pancia di Balena è un progetto di Tiziana Cesarini, Alessandra Meneghello, che è un'artista che ha già esposto con noi a Villa Panfili, ma è anche l'artista di Sagire, si chiama così il suo nome d'arte. Sì, assolutamente sì, che fa tutti i visual e molti video della Grazia Obliqua, quindi è sempre nella cerchia, e insieme ad Alessandra Trini di Berziani, che conosciamo bene come musicista, come tastierista della Grazia Obliqua, ex componente del Ciclo di Bete, batterista del il balletto di bronzo, no, il balletto di bronzo, no, scusami, stiamo parlando degli anni 70, no, è 70. La come si chiama, oh mamma mia, aiutatemi da casa per favore. Batterista devo chiudere un attimo il microfono. Vabbè, la mia memoria fa schifo proprio, cioè manco un criceto stordito. Vabbè, comunque, insomma, è batterista, tastierista, cantante, fa di tutto. Uno dei gruppi erano i Grunge, però... E i Grunge, sì, ma no, lei non ci sarà, esporrà anche Marcio Grunge, due opere nell'esposizione. Quindi veramente un... mischione di roba meravigliosa. Probabilmente avremo un'altra performance anche di musica sperimentale nella chiusura della manifestazione. Quanto si sperimenta? Mi si sta a seccare la lingua così, però. Sentiamo un altro brano, forse il tuo terzo e ultimo brano. Terzo e ultimo brano, Le Tigre. E poi spiegherò, o lo spiego subito. Vai, spiega. Spiego subito perché è un pezzo dalle sonorità punk, e il punk è stata la colonna sonora del mio fare politica fin dagli inizi, quindi stiamo parlando degli anni 80, i primi centri sociali occupati e autogestiti della città. Il punk perché è do it yourself, e l'auto-organizzazione, l'autogestione è la base, è stata la base ed continua a esserlo del mio agire politico, ed è un modello. Every day. see you later. Eh sì, l'avevo scelta come terza e ultima perché si chiude con see you later. Eh sì, assolutamente, caro Federico, noi ci, vabbè, noi ci sentiamo quotidianamente per tutti questi impicci che ci abbiamo, però ovviamente siete tutti invitati a partecipare. Voglio dire un'altra cosa che è molto speciale di questa occasione, per la Festa dell'Arte a Monteverde. Ci abbiamo tenuto tantissimo a coinvolgere, anche se magari non era necessario, ma più che altro come posizione presa nei confronti dell'arte e della cultura di qualità, abbiamo voluto coinvolgere diversi media partner e siamo strafieri di poter dire che quest'anno, in questa edizione, abbiamo Radio Elettrica, Radio Città Aperta, Radio Underground Italia e Samarcanda Digital Radio, ex Radio Centro Idea. Siamo stracontenti di avere queste quattro realtà potenti su Roma, che hanno deciso di partecipare insieme a sostenere questa manifestazione. E per noi è un segno importante. Si cresce, ma un segno importante anche di solidarietà e di un obiettivo comune. E questo dà coraggio a continuare. Ci salutiamo? Bene, sì, vai a mangiare adesso, vai. Vabbè, allora, quarta edizione della Festa dell'Arte a Monteverde, a Roma, al Teatro Villa Panfili, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2025 per l'edizione primaverile della Festa dell'Arte. Come abbiamo detto, mostra collettiva, performance, com'era, i contributi musicali? Sonorizzazioni e rumori, dibattiti, proiezioni, un'area dedicata alle attività di bimbe e bimbi, uno spazio dedicato anche all'esposizione di case editrici indipendenti, soprattutto le visite guidate di Andrea Di Giorgi al Gianicolo, nei luoghi delle battaglie a difesa della Repubblica Romana. E mi sembra di aver detto tutto. Basta. Basta. Ah, ok. Ci vediamo lì. Grazie. Ciao. Ciao.